questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, questo tanto per chiarire con chi abbiamo a che fare, questo accade, questo è ciò che sentite se chiamate al telefono Cristiano Marzorati, che è il nostro convocato per un giorno di oggi. Ciao Cristiano. Ciao Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, non è gravissimo essere interisti, certo. È bello, ci sono stati tempi recenti in cui ci siamo divertiti. Sì. Pierluigi Pardo, ciao. Io per un gol. Questa è in barese, però, stai cantando in barese. Barese, io per un gol. Noi ovviamente aderiamo alla campagna mondiale ormai, compratela a Bari, perché ormai ci sono tutti, dalle pornostar ai politici, che poi un po' più o meno è la stessa cosa, dai. Allora, 800 24 00 24, Franco Piattini, autore di questo programma, come sempre, Radio Schiattone, in data giù la linea con Cristiano Marzorati, o con Pardo? Pardo, vabbè, adesso lo recuperiamo. In redazione Roberto Scaltritti, in regia voi al telefono come ogni giorno, 800 24 00 24, il numero verde. Ma intanto questa mattina Silvio Berlusconi, scusa Cristiano, parto dal Milan. Vabbè, c'è chi sta peggio, mi sembra giusto dare la precedenza ai più sfortunati. Alle minoranze? Alle minoranze, certo. Va bene, all'altra metà di Milano. Comunque, stamattina con Giovanni Minoli a Mix 24 c'era Silvio Berlusconi, così parlò Berlusconi. Ma parliamo di errori, ne abbiamo parlato un po', anche se da Fermina è stato un errore. No, come no? Lo mandate via. Pensavamo che avesse tutti i requisiti e non li ha. Per poter essere un buon allenatore. Adesso, alla fine, dopo l'ultima partita di campionato, riuniremo il consiglio e, come abbiamo sempre fatto per tutte le decisioni, prenderemo una decisione insieme, e io spero che, come ci è capitato tante volte, si possa prendere la buona decisione. Le dirò che non è neppure escluso che possa continuare Seedorf, sempre se con Seedorf riusciremo a trovare un accordo sul tipo di rapporto tra lui e la società. Traduzione: pensavamo fosse un bravo allenatore, non lo è, lo mandiamo via. Pierluigi Pardo, non c'è. Cristiano Marzorati. Guarda, io non ho mai pensato che Seedorf fosse un allenatore, per cui... Che cos'è? È un ottimo ex calciatore. Un ottimo ex calciatore? Sì, sì. Mi sembra che non abbia fatto malissimo come allenatore, nei suoi primi passi da allenatore, ha fatto risultati alla mano meglio di Allegri. Gli era stata chiesta l'Europa, non so se in termini realistici o in termini un po' demagogici, l'Europa non arriverà per il Milan. Ma comunque, anche dovesse arrivare, Seedorf andrà via lo stesso. L'hanno fatto apposta per avere una scusa per cacciarlo. Sì, probabilmente è così. Così parlò Berlusconi 2 sulla strana coppia Galliani-Barbara. E la doppia, a proposito del rapporto della società, la doppia guida al Milan di sua figlia Barbara con Adriano Galliani, a che esigenze risponde? All'esigenza dell'innovazione insieme alla esperienza di Galliani e quindi alla continuità. E sua figlia è l'innovazione. Sì, certamente. Dunque, Galliani all'esperienza, Barbara all'innovazione, rimane questa strana creatura a due teste, non è detto che funzioni. Ovviamente gli interisti sperano di no, da qui all'eternità, no? Ma guarda, noi interisti, almeno io personalmente, non vedo più il Milan come un avversario. Combattiamo su livelli differenti, perché noi siamo messi male, però. Non mi pare, mi sembra che la zona della classifica sia più o meno la stessa, ma comunque mi sembra anche che l'ultimo derby... Ma l'ultimo derby, sì, ma sai, nelle partite secche può succedere di tutto. Nelle partite secche può succedere di tutto. Poi dopo, su 38 giornate, i valori vengono fuori. Vediamo se c'è Pierluigi. Eccolo. Ci stai? Sì. No, stavamo sentendo, risentendo Berlusconi che stamattina era con Giovanni Minoli, MX24, sì, su Seedorf. Pensavamo fosse un buon allenatore, adesso vediamo se alla fine della stagione se tenerlo. Però no, ho fatto la traduzione dal berlusconese al volgo comune. Pensavamo fosse un buon allenatore, non lo è, lo mandiamo via. Lunedì mattina alle 8:30 c'è, mi pare sia una riunione in via Aldo Rossi, nuova sede del Milan. Sì, è un'ipotesi molto probabile, molto molto probabile. Mi sembra che sia la versione in prosa delle dichiarazioni o delle suggestioni che abbiamo letto in questi giorni sui giornali, che parlano di una situazione irrecuperabile. Berlusconi stamattina è stato, diciamo, più prudente, più elegante, però alla fine la sostanza è quella. Se non credo che ci sia margini, comunque in quella frase con la quale comincia il suo intervento, della quale appunto racconta che credevamo potesse essere l'uomo giusto, credevamo e non è stato così, mi pare abbastanza evidente, anche se poi io credo che sulla vicenda sportiva di Seedorf, almeno per quanto riguarda i risultati, insomma, non è andato sicuramente bene, però non è andato nemmeno in una maniera così catastrofica, cioè se verrà mandato via, come credo, verrà mandato via per delle cose che sono al di là delle vittorie, dei pareggi e delle sconfitte di queste gare o del gioco espresso. Andrà via perché evidentemente non è così amato all'interno del gruppo, cosa che si poteva forse anche immaginare prima, e perché non ha dato delle risposte che la società voleva. Sì, e probabilmente non ha saputo gestire al meglio quel gruppo, eccetera eccetera eccetera, tutte cose che sappiamo. Non sappiamo invece ancora chi arriverà. Ieri abbiamo parlato di Ancelotti, e Ancelotti e Conte sono le ipotesi più bizzarre e suggestive, ovviamente poi i nomi sono quelli noti. Però oggi vorrei virare subito dopo il traffico sull'azzurro, perché secondo me i temi stanno lì. Ha parlato Prandelli, Rossi e Cassano non si escludono, Immobile come Pablito e come Schillaci, avessi portato un senatore avrei portato Totti, pensavo a lui, poi sono esplosi i giovani. Poi dice ancora Prandelli, le liti sul codice etico sono lo specchio di un'Italia faziosa. Insomma, tutte queste cose, un sacco di dichiarazioni, un sacco di temi, di argomenti. 800 24 00 24 per intervenire. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Lepo, lepo, é tão gostoso quando eu rapo, lepo, lepo. In questo momento abbiamo visto che c'è una condizione fisica nei confronti loro, non dico imbarazzante, ma quasi. Dovremmo lavorare molto, perché se vuoi giocare con ritmi alti devi avere anche intensità di corsa. Noi volevamo cercare di conquistare palla alta, non ci siamo mai riusciti, o quantomeno poche volte, perché proprio non avevamo la corsa che hanno loro in questo momento. Penso che abbia dato un messaggio importante per tutti quelli che vogliono raggiungere un obiettivo facendo tanti sacrifici. Lui sta facendo tanti sacrifici, e non dimentichiamo che quando si fece male era capocannoniere e per 6 settimane è rimasto sempre al vertice. Quindi non è soltanto un premio, ma noi crediamo che possa recuperare. Ma tanto dice, se anche recupera Rossi non è detto che Cassano stia a casa. Pierluigi, tra le varie dichiarazioni di Prandelli, che avrai certamente letto oggi, sì, tre pagine sulla Gazzetta dello Sport, quale ti intriga di più? Beh, quella su Criscito. Sì, su Criscito. Ma strano, strana sta cosa, anche perché lui era sempre stato, Prandelli è sempre stato uno abbastanza moderato, se vogliamo, le dichiarazioni. Signor, allora, quella su Criscito la leggo per chi non fosse stato all'ascolto, chi non avesse letto la Gazzetta. L'esclusione di Criscito significa che chi gioca all'estero ha meno possibilità di essere seguito? Questa è la domanda. Risposta: questa è stata una scelta tecnica e, con tutto rispetto, non ho lasciato a casa Cabrini o Paolo Maldini. Noi seguiamo tutti i campionati, abbiamo 15 persone che vanno a osservare i giocatori in giro per l'Italia e l'Europa, e non mi sembra che lo Zenit in Europa abbia fatto chissà che cosa. Quelli del Paris Saint-Germain ci sono, Premesso ciò, a sinistra abbiamo anche altre idee. Queste sono le dichiarazioni di Prandelli su Criscito, che poi approfondiamo, però, perché adesso abbiamo un ospite, come ben sai, che sarà il grande protagonista dei primi giorni verso il mondiale. Il grande protagonista non sarà né Prandelli, non sarà Cassano, Giuseppe Rossi, Balotelli, gli esclusi, ma sarà il Doc, giusto Pier? Certo, professore. Professore. Enrico Castellacci, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Troppo buono. È la verità. No, ma perché, insomma, l'ha detto anche Prandelli, no? Valuteremo tutto sulla base dei test fisici, delle condizioni. Questa è un discrimine mai così sentito, cioè l'esigenza di una nazionale che stia bene fisicamente non è mai stata forse così avvertita, o no, prof? No, avete perfettamente ragione, cioè è un'esigenza primaria, ma se vi ricordate il mister già dopo la Confederation Cup espresse questo parere, noi vogliamo 22 atleti più che 22 giocatori, cioè insomma questo era lo spirito filosofico, cioè riuscire a fare una preparazione tale da mettere veramente al 100% questi ragazzi. Devo dire che adesso insomma il prof farà il vago, ma insomma c'è un'equipe di livello elevatissimo in questi anni, lo si è visto nel 2012, l'infortunio di Chiellini, quello di Barzagli, c'è una procedura di recupero dagli infortuni particolarmente veloce, insomma mi sembra che siamo all'avanguardia. Che precauzioni particolari ci saranno per il Brasile? Allora, le vaccinazioni, già me l'hai detto in privato, le vaccinazioni non le fanno i giocatori, vero? Ma dunque il concetto è questo, noi ci siamo chiaramente informati moltissimo, abbiamo fatto un workshop in Brasile con la FIFA per capire un attimino queste benedette vaccinazioni. Le vaccinazioni che si potrebbero fare toccano esclusivamente la malaria, che è una profilassi, poi non una vaccinazione, la febbre gialla che difficilmente viene fatta, e poi l'altro problema è il dengue, che forse è il più pericoloso laggiù in Brasile. Per le prime due abbiamo dato la possibilità ai medici delle società di decidere insieme ai giocatori se farle o non farle, quindi non abbiamo detto di non fare le vaccinazioni, abbiamo dato la possibilità ai medici delle varie società di decidere, perché queste vaccinazioni possono dare degli effetti collaterali e poi magari le società non avrebbero voluto tutto ciò. Devo dire, a onor del vero, che in generale quasi nessuna nazionale fa grosse vaccinazioni. Per quanto riguarda il dengue, voi sapete, è sempre dovuto alla zanzara, non ci sono vaccinazioni e quindi sarà utile esclusivamente una forte protezione che cercheremo di portare. Poi ci vuole anche fortuna anche nel non essere punto dalla zanzara, sì. Su questo non c'è dubbio. Occhio a Cruciani. Occhio a Cruciani in generale, dimmi Piero. Dal punto di vista delle precauzioni della preparazione, visto anche che giocheremo questa benedetta prima partita a Manaus, sì. Il tasso di umidità elevatissimo, sì. La preparazione si adatta insomma alle sedi nelle quali giocheremo le prime tre partite? Ma ti devo dire questo, tu sai come il mister è estremamente professionale in questo e c'ha uno staff di preparatori di incredibile preparazione, ecco, lo dico proprio in maniera obiettiva, grazie a loro quindi nulla è dato al caso, poi a partire di calcio, sulle partite di calcio ti fai il massimo, ma c'è sempre quello che non puoi prevedere, però in realtà cioè, noi stiamo facendo di tutto per prepararli anche a un clima, a un'umidità molto particolare. Te sai che a Manaus si aggira una temperatura a 30 gradi con una umidità 85%, per cui viene percepita la temperatura con 4-5 gradi in più, e giocare a 35-36 gradi non è piacevole. La stessa cosa avverrà a Recife a Natal, quindi queste sono le condizioni. Prof, ma poi ho letto, prof, mi scusi, effettivamente sono anche quelle degli altri. Beh, certo, gli inglesi non sono più abituati di noi a quel clima. Ho letto che a questo proposito ci sarà molta tecnologia in questa spedizione. Sì. Ho letto di tecniche di recupero da missione aerospaziale. Sì. Sì, beh, ti dicevo, noi abbiamo la fortuna di avere dei preparatori di grande valenza e per cui abbiamo delle strutture tecnologiche d'avanguardia, cioè così come la cassetta che che riproduce perfettamente la temperatura e l'umidità che troveremo a Manaus, dove dentro ci sono tapirulati, ciclette, per vedere come reagiscono i ragazzi a quelle temperature. Abbiamo che ne so, la criosauna che ti porta la temperatura a meno 170, meno 180 per un recupero particolare, per uno scarico endorfinico particolare. Abbiamo le strutture refrigerante, altre apparecchiature tipo refrigerante. Insomma, voglio dire, da questo punto di vista, ho detto bene, siamo all'avanguardia, quindi cioè, cerchiamo di non lasciare nulla al caso. Ma poi, sai, ripeto, forse la bellezza della filosofia pallonare è proprio quella, certo, che poi in una partita di calcio può succedere. Una partita di calcio succede qualunque cosa. Poi c'è un ascoltatore, Pierluigi, c'è un ascoltatore che la tocca piano. Se servono 22 atleti, questo è dedicato a te. Se servono 22 atleti, Cassano rimane a Parma. Secondo me è molto cattivo. No, io volevo capire dal professore, non voglio sapere degli exit poll sulla condizione fisica dei ragazzi, però volevo capire questo pre-ritiro a Coverciano quanto è importante per valutare le condizioni, cioè quanto sarà lì che se la giocheranno, soprattutto quelli che sono in bilico, che tipo di test verranno fatti e quanto sono stati importanti i test già fatti ad aprile. Ma è una domanda molto interessante. Sicuramente sono 15 giorni importanti, 15 giorni importanti perché comunque sia dentro ci sono 30 giocatori e 7 purtroppo dispiacerà, ma torneranno a casa, e quindi le condizioni fisiche penso che saranno molto ma molto importanti, perché il mister decide sulla tecnica sicuramente, ma tanto vorrà dire la valenza fisica. Quindi i test che faremo saranno rapportati proprio con quelli che sono stati fatti ad aprile, e quindi ci daranno un enorme aiuto per poter capire le condizioni dei ragazzi, e quindi verrà fatta una valutazione per portare i 23, ma nello stesso tempo anche una valutazione per poter fare delle preparazioni anche differenziate a secondo delle esigenze dei giocatori stessi. Grazie prof, è stato un piacere. Senta, ci sentiamo a lavoro in corso, sicuramente. Promesso. Sicuramente vi seguo sempre con affetto e attento alla zanzara. Occhio alla zanzara. Quale lo sa. Lo sa benissimo quale, però. La dengue forse. Allora facciamo un'agenzia. Castellacci 2 punti, Cruciani è peggio della dengue. No, non l'ho detto questo, sennò mi massacrano. Grazie, bro. Salutatemi anche Cruciani. E lei, ragazzi, lei ci saluti. Lei ci saluti Cassano e anche Giuseppe Rossi. Sicuro. Grazie, bro. Sarà la prima cosa che farò. Stai dicendo, Pardo? Oh, bravo prof, mi raccomando. Poi diamoci dentro, leviamoci tanto. Io voglio sapere il mio convocato per un giorno, Cristiano Mazzolati, chi vuole in nazionale? Chi vuole Cassano, Giuseppe Rossi? Chi voglio in nazionale? Tu vuoi tutti quelli dell'Inter? No, ma dell'Inter non posso volerli perché non ce ne sono di italiani. L'unico che c'è, ecco, mi auguro che parta Ranocchia. Perché Ranocchia, secondo me, è un giocatore che merita la nazionale. E, quali basi? Sulla base del rendimento che ha avuto. Tra l'altro, guarda, neanche a farlo apposta, ho analizzato la votazione dei nostri difensori recentemente per una discussione tra amici, e ho scoperto che il miglior difensore dell'Inter nella stagione 2013-14 è stato Ranocchia, con una votazione media di 6,3. Infatti non benissimo l'Inter. No, ho capito, però questi qua mi dicevano Rolando, Jonathan, eccetera. Sto a scherzare. Samuel, di tu è meglio di Samuel. Vabbè, è stato Ranocchia. Samuel non ha mai giocato, cioè Samuel è stato fuori. Samuel è l'unico di livello mondiale che... Anche lui è un buon ex a giocare con Seedorf. No, è un buon ex in generale, cioè ormai... Vabbè. Ne parliamo dopo, 800-24-0024, numero verde, borsa. No, può essere anche un giocatore che gioca in quella zona centro-sinistra, anche se devo dire che quel ruolo mi piace molto, è un ruolo che Roberto è stato bravo a proporgli, l'avevamo fatto anche noi e lui 2 anni fa non era molto convinto, però con Giuseppe Rossi era una coppia che erano 2 finti 9, insomma. Tutti convocati. Ci siamo ragazzi. Allora, Pierluigi Pardo, ovviamente collegato con noi come sempre, Cristiano Mazzorati qui con me, convocato per un giorno e interista marcio, direi che l'aggettivo è quello corretto. Buono. Sì, io invece sono un ignorante e dichiaro tutta la mia ignoranza perché? Perché Agnelli questa mattina ha detto: è da ignoranti pensare che una stagione sia fallimentare perché non si è vinto in Europa. Ebbene, secondo me la stagione della Juventus è stata fallimentare, quindi. No, ma dai! Ma no, dai, cosa? Ma che cosa? Ma come fallimentare? Terzo scudetto consecutivo, record di punti. No, in Europa! Non fa, no, in Europa! Europa. E lui ha detto. Certo, in Europa. È stata molto deludente, molto deludente. No, beh, è chiaro che non puoi dire che è fallimentare la stagione di uno che ha vinto lo scudetto, perché questa sarebbe una stronzata colossale. Anche in Europa, comunque, alla fine si è arrivato in semifinale in Europa League, non è. Sì. Però va bene, se arrivati, se non sei esattamente sotto ogni previsione da parte europea. Dubbio, ma lo sa pure Conte, lo sa pure Agnelli. Sì, e però, insomma, secondo me la parola fallimentare, secondo me, per la stagione europea della Juventus ci sta. Beh, Champions League non parliamo neanche, ma anche Europa League, secondo me l'andamento è stato, e anche l'esito è stato deludente. Sempre Agnelli ha detto: Platini è simpatico, ma a me basta vincere, non mi interessa chi potrà premiarmi. E questa ci sta, la risposta a Platini, che ha detto: vabbè, devo stare qui un sacco di tempo per premiare la Juventus. Buffon: una Juve senza Conte è qualcosa che noi giocatori e il tifoso juventino non prendiamo nemmeno in considerazione. Questo dice Buffon. Gaetano da Padova che dice invece? Sì, buongiorno intanto, grazie buongiorno. Per la convocazione. Allora, io volevo intervenire su Seedorf e il Milan, se fosse possibile. Sì, come no? Non sono milanista, tanto per cominciare, però la questione è un po' emblematica, secondo me, no? Ad un certo punto fanno fuori Allegri, chiamano Seedorf senza alcuna esperienza. Seedorf dopo la prima partita, mi sembra sia finita 1-1, dice: ah, ho riportato la gioia di giocare, no? E poi fa una stagione fallimentare. Allora la domanda è questa, che pongo a voi ovviamente: ma non vi sembra un po' arrogante, un po' presuntuoso, un po' un'ambizione oltre le proprie competenze, accettare senza esperienza fare l'allenatore di una grande squadra come il Milan? Cioè le dice Seedorf arrogante e presuntuoso. Ecco, e Galliani poteva affidare, visto che ha fatto fuori Allegri, la squadra a Tassotti che lo merita. Attenzione, Galliani non ha fatto fuori Allegri, eh. Galliani no, non ha fatto fuori Allegri e Galliani non ha scelto Seedorf. O chiunque sia stato, sì. Potevano affidare la squadra a Tassotti, che lo merita secondo me, un posto da primo allenatore, la traghettava e poi insomma si decideva chi fare l'allenatore. Sì, però abbiamo detto molte volte, Gaetano, poi lascio la risposta a Pardo e concludo con la cronaca, abbiamo detto molte volte: se Seedorf è l'allenatore del futuro, perché questa è l'intenzione della proprietà, se è lui l'allenatore del futuro, allora è giusto, può essere una mossa saggia quella di non usare alcun traghetto e di anticipare i tempi dei lavori chiamandolo subito. Poi se Seedorf sia presuntuoso, no, non credo, perché è evidente, se uno viene chiamato ad allenare il Milan ci va, se ha intenzione di fare sto mestiere, no? Sì, insomma ci vuole un po' più di umiltà secondo me, ma comunque va bene, insomma. Umiltà, se i grandi campioni non sono mai gente particolarmente umile, a parte questo pronto? che doveva fare Seedorf? Rifiutare? Appunto, ha avuto una chiamata dal Milan, chiaramente ha avuto una chiamata con dei rischi, perché ricordo che lo dicevamo nelle ore immediatamente precedenti al suo insediamento, chiaramente era una squadra non scelta da lui, con dei problemi, con un momento psicologico allenato da un altro allenatore, quindi era comunque una sfida in corsa e quindi era complicata. Però insomma io penso che uno nella vita, se può fare delle cose, deve fare. Certo, che cosa deve dire? No, preferisco partire dalla San Benedettese, poi vediamo. Alcune uscite di Seedorf, io sono l'antivirus e tutto il resto, insomma un certo approccio murignano alla vita, in cui questo posso essere d'accordo. È chiaro che più fai lo staccone all'inizio e più ti prendi il rischio che se le cose vanno male, però insomma fa parte della vita. Seedorf è uno che nella sua vita ha vinto talmente tanto che secondo me non poteva neanche contemplare l'ipotesi del successo. Ma ripeto, secondo me l'insuccesso vero, il motivo per il quale molto probabilmente non verrà confermato, è è extra campo, secondo me è extra campo, perché poi certo alla fine sì, non è andato benissimo, ma neanche malissimo, ma neanche non malissimo, è una catastrofe. No, se prendiamo lo spaccato della stagione di Seedorf, una catastrofe no di sicuro. Volevi dire, ma, Cristiano? No, intanto mi trovo perfettamente d'accordo con quanto diceva Pierluigi riguardo alle uscite un po' azzardate, diciamo, di Seedorf nel presentarsi e nel definire le sue prime partite sulla panchina rossonera. Riguardo all'eventuale licenziamento di Seedorf, io ho un'idea e vi chiedo se potrebbe essere questo il motivo. Le famose due punte che non ha mai schierato. Cioè, noi sappiamo che Berlusconi è un fanatico dei due attaccanti, possibilmente col trequartista dietro. Seedorf ha sempre detto: Pazzini esclude Balotelli, Balotelli esclude Pazzini. Io gioco con un attaccante solo e poi Kakà, Rabt, Sharawi quando ce l'ha. Comunque con questo schema 4-2-3-1 certo, questa squadra all'inizio è ancora più offensiva, però per la verità, perché tutte le mezze punte possibili mettiamo in campo, può essere Berlusconi quella la ragione. Ha cercato di convincerlo, Seedorf gli ha risposto picche, perché è un allenatore, un uomo di carattere, e Berlusconi ha detto ciao. Ma ci sono aspetti tattici, secondo me sono tutti aspetti di spogliatoio, di carattere della squadra complessivo, che Seedorf non è dato. No, è questo. Chi è? Sono italico, è un po' di entusiasmo dei ragazzi, perché è difficile fare due cose contemporaneamente, però facciamo la foto intanto. No, per me, ti ripeto, l'aspetto tattico sicuramente c'è, ma quella è una squadra costruita male, teoricamente costruita male. Forse ciao ragazzi, ciao, divertitevi, ciao. Capito? Così, è complicato. C'è altro da fare? No, se no passameli, io ci parlo volentieri. Ti passo Liana Marocco, stai con Radio 24, dite le cose, di grande livello. Io ho appena abbracciato Pardo. Mamma mia, che brividi. Hai visto come stiamo? Cioè, il paese è in una condizione disperata. Non si è riuscito altro che Phil. Ho appena abbracciato Pardo, c'hai brividi. Povera Stella, mamma mia. Mi sto spostando in una zona isolata, però è difficile perché non no, ma stai lì, isolata, ma stai lì nella Torcida, ma dove vai? In una zona isolata perché? Io ti voglio nella Torcida, con quelli che ti abbracciano e vogliono le foto. Va bene, ma mi butto nella Torcida allora. Ce l'hai la maglietta, tutti convocati? No, non ce l'hai. Qua non ce l'ho su. Te la sei scordata. Vabbè. Io segnalo all'establishment. Io non ce l'ho ancora. Sul cuore. E paraculo che sei. Io non ce l'ho ancora, faccio presente a loro signori pubblicamente. Gianni da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io volevo fare un commento su Conte. Sì. Parlo da tifoso juventino con tutta la riconoscenza possibile, perché è inutile stare a ripetere il pre-Conte, che cosa è stato poi invece questo ciclo di 3 anni. Credo che però Conte sia un problema non da poco, nel senso che nelle ultime 3 estati Conte puntualmente crea questa situazione che mette in difficoltà l'ambiente in qualche modo. Ecco, io credo che sia ora il momento di allontanare Conte, proprio perché è evidente che non puoi progettare a medio-lungo termine con un allenatore che non credo che a questo punto sia un problema di trofei, anche perché questa benedetta Champions non è che andare al Manchester United o al Real Madrid o al Monaco ti assicuri che la vinci alla prima occasione. Io credo che Conte, da ambizioso anche a livello di portafoglio, voglia entrare in quell'elite di allenatori che guadagna un po' quello che vuole. Sì. La Juventus non è l'ambiente giusto evidentemente per questo tipo di ambizione. Penso che la Juve si debba tutelare a questo punto con un allenatore su cui costruire e dire: per 3, 4, 5 anni non abbiamo il problema, salvo cattivi risultati, non abbiamo però il problema che nonostante abbiamo vinto lo scudetto, nonostante si venisse a un periodo orribile, quindi ogni scudetto dovrebbe essere una gioia. Sì, ma è chiaro il discorso, ma mi sembra comunque che... Io non credo che c'entri il portafoglio. Anch'io non credo, sai. Premesso che poi siamo tutti bravi a fare i conti in tasca agli altri, è chiaro che se anche guadagni 3 milioni, beato te, e se uno te ne dà 5, uno dice: ah, perché non devo... Cioè, Io il moralismo, questo moralismo non, non mi piace, perché secondo me Palatino è giusto che la gente si faccia i suoi conti, ma io non credo che sia questo. Io credo che Conte, dopo tre anni in cui ha vinto tre scudetti con una squadra che ha stremuto sicuramente, che è ancora in ottima salute ovviamente, però che ha stremuto molto, che ha logorato molto, abbia voglia di nuovi, avrebbe voglia di stimoli nuovi, ma ripeto, senza nulla togliere al suo cubismo, al suo essere sì, juventino sì, fino sì. al midollo, cioè è normale, sì. è normale che possa desiderare il Manchester United, che possa desiderare una grandissima panchina, ma chi non la vorrebbe, sinceramente, dai, non cerchiamo, usciamo un attimo dalla logica del tifoso, entriamo in quella del professionista, cioè dopo che hai fatto benissimo una cosa per tre anni e non hai grandissimi margini per poter fare di più lì, è una grande chiamata per andare per esempio a dimostrare che non sei provinciale, cosa che dico di tutti, no? Perché non dovrebbe desiderarla? No, ma è chiaro, ma è tutto legittimo, è legittimo il suo desiderio, come potrebbe essere legittimo il desiderio della Juventus di cambiare strada, per molte ragioni. Sai cosa però, più passa il tempo, più vedo dichiarazioni, leggo Buffon, più mi convinco che non sono più così convinto che si separeranno Conte e la Juventus, perché c'è qualche segnale che mi fa pensare che invece, non so se con pieno accordo, con piena fiducia, con tutto l'amore del caso, non so se per questo o per altre ragioni, però ho la sensazione che Conte resterà lì. L'unica cosa che mi auguro per la Juventus e per i tifosi juventini è che non sia una fiducia a termine, una fiducia sotto condizione, perché questo è il peggiore dei mali. Strade, poi torniamo. Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro. Chiaro. Tutti convocati. Dunque torniamo, 800240024. Senti Pierluigi, ma dimmi, torniamo un attimo a Prandelli e a quelle parole su Criscito che ti hanno colpito, come hanno colpito, perché sono un po' fuori dagli schemi per uno come Prandelli. Secondo te perché? Perché viene da giorni complicati, non tanto per la questione di Criscito, secondo me, quanto per la questione di Chiellini. La questione di Criscito, se vuoi, uno sfogo. Poi le due cose in qualche modo si intrecciano, perché Criscito ha il dente avvelenato anche per l'esperienza del 2012. Io questo l'ho detto perché è storia. Cioè, viene fatta quella perquisizione all'alba a Coverciano, vediamo svegliare tutti di sovrassalto, e alla fine Bonucci parte e Criscito no. Insomma, è storia. E nessuno potrà mai ridare a Criscito quell'esperienza, quella finale europea contro la Spagna, quella apertura lì, non gliela potrà mai ridare nessuno, purtroppo. Quindi certamente è una vittima di questo tipo di situazione. E credo però che alla fine, in quella circostanza, Prandelli applicò il codice etico un po' con la sua convenienza, quindi con Bonucci, che in quel momento evidentemente per lui era più importante di Criscito. Io sto codice etico veramente non lo sopporto più. Tra l'altro Prandelli ne ha parlato tra le molte altre cose. Abbiamo una voce di Prandelli sul codice etico, vero ragazzi? Sì. Per quanto mi riguarda non è pesante per nulla, perché finché i giocatori sono coinvolti e sono partecipi in questo nostro modo di essere, andremo avanti. Il giorno che ci sarà un giocatore che mi chiederà di modificare il progetto, allora quello sarà un problema. Questo Prandelli, tra le altre cose sul codice etico, ha anche detto lo specchio queste liti sul codice etico sono lo specchio di un'Italia faziosa. In parte questo è vero, però il codice etico l'Italia è faziosa, ma ribadisco, altrimenti uno si prende sul pezzo della dichiarazione di oggi, però sicuramente questo tipo di scelta, una certa idea faziosa ha dato la guazza, come si dice a Roma, a chi voleva pensare male. Poi io sono convinto che non sia una valutazione legata alle squadre, legata alla Juve piuttosto che alla Roma. Io sono sicuro che avrebbe fatto la stessa cosa con De Rossi. No, ma certo, ma il problema è che vengono lette ed interpretate così. Serve Chiellini come gli sarebbe servito De Rossi, e insomma, i titolarissimi della nazionale lui non li tocca, ma giustamente, io sono dalla sua parte. L'unica cosa è che se avesse risparmiato questa cosa del codice etico, soprattutto le dichiarazioni di metà aprile, si sarebbe risparmiato un problema lui. Sicuro. Una foto completamente contro sole. Una foto completamente nudo al Foro Italico. Contro sole, una foto, vedono solo le nuvole. Dicevi Cristiano? No, dicevo che riguardo al codice etico è un atteggiamento abbastanza masochistico, per non dire tafazziano. Pierluigi diceva giustamente che l'Italia è l'Italia faziosa, sì, come paese. Beh, come, ma indubbiamente, però la stessa Italia è calcisticamente ipocrita e il codice etico è un argomento nel quale questa ipocrisia si manifesta maggiormente, sì, sì, anche da parte dello stesso Prandelli, anzi soprattutto da Prandelli che lo ha inventato. Pierluigi? Sì, ne l'abbiamo da 5 giorni. No, non te, Pierluigi da Parma. Pierluigi, da Parma. Ciao Pierluigi, come stai? Di dove sei? Ciao, di Langhiano? Di dove sei? Di Langhiano? No, sono proprio di Parma. Proprio di Parma? Parma, di Noceto, di Busseto, dove sei? No, a Parmaceto, Parmaceto. Ma dove sei? Vicino al Battisteo, di fronte al Ducato? No. Periferia. Senti, io sono interista e quindi saluto il compagno del tifo Cristiano. Il collega. Vai, Luigi, tieni alta la bandiera. Sempre. Senti Cristiano, volevo chiedere a te, hai visto le anticipazioni della nostra nuova maglia di quel prossimo anno? No, devo avere paura? È tipo quella del Milan? Ma non l'hai vista? No. Ma che interista sembra, sei? Quando l'hanno presentata? Adesso te la faccio vedere. L'ho visto su Inter, sembra un completo gessato alla cerimonia. Tipo quella, tipo la divisa di rappresentanza ai tempi di Pagliuca... Esatto. Oppure sì, quella degli Orlando Magic, per essere più. Ma è la prima o la seconda? È questo il punto. Il dubbio è questo: se è la prima, io mi sparo, se è la seconda, pazienza. Vorrei dire che avrò un motivo in più per scioperare, allora. Esatto. Meraviglioso questo sipario di R. Mosche, bellissimo. No, allora, io la ho maglia, solamente adesso, un ottavo di sangue parmigiano. Aspetta, adesso poi ti faccio vedere la maglia. Allora, la maglia in sé è bellissima. È nera gessata blu, nera gessata azzurra. No? Il problema è che se mi dicono quella lì è la maglia dell'Inter, allora va bene tutto. Cioè, va bene che tu eri presidente, va bene che ringrazi Allah per essere entrato in Coppa, ma la maglia dell'Inter gessata è una cosa un po' hard. Ma lo sponsor è scritto in caratteri europei o indonesiani? No, normali, europei. Questa è la vera domanda. Quale? Quanto è internazionale la maglia dell'Internazionale? I caratteri dello sponsor, sì, devo dire che anche i tempi di Moratti ci furono un paio di volte un paio di maglie commerciali ardite, sì. Eh? Con Pirelli scritto in giapponese, cinese. Sì, però al di là della grafia dello sponsor, cioè proprio la maglia, cioè se dicono quella, tu l'hai vista? Quella è la maglia dell'Inter, cioè veramente è nera con sottilissime righe azzurre. Se mi dicono quella seconda maglia, stupenda, molto bella. Quella del Milan invece, secondo me, fa schifo. Quella nuova, veramente. No, quella dell'anno prossimo, quella rossa e nera, quella rossa e nera, però la prima maglia, però come insomma, come impatto a me non piace neanche un po'. Questa dell'Inter è bellissima dal punto di vista estetico, secondo me però non è la maglia dell'Inter, quindi se mi dicono l'Inter gioca così, quella lì è la maglia, io dico, fossi un interista come Cristiano direi non lo so, vediamo, parliamone un attimo. Allora ragazzi, aggiorniamo perché adesso ho la pagina dedicata agli scommettitori. Io spero di Pier, ci sentiamo altri 10 minuti dopo? Cioè, fuori italico? Perché bene, così bene, vediamo se riusciamo a fare entrare un colpetto. Dai, però fagli un colpetto di telefono anch'io. Dai, a dopo. No. Quote e pronostici. Scende in campo la Serie A per l'ultima giornata di questa stagione. Tutte in campo domenica, 3, le gare in programma alle 15. Le altre sono in campo invece alle 20:45. Alle 15 la Juventus cerca i 100 punti per entrare nella storia nella partita contro il Cagliari. Ai bianconeri basta il pari. E allora sono queste le quote SNAI per questa partita. L'X è quotato 6,50, l'1 che porterebbe la Juventus addirittura a 102 punti è quotato 1,18, il 2 invece è quotato 15. Domani invece scende in campo la Serie B per la 40ª giornata, si gioca anche per la promozione diretta con la sfida a distanza tra il Latina e l'Empoli. Proprio i toscani scendono in campo contro il Novara, l'1 dell'Empoli è pagato 1,60, il 2 è quotato 6,50, l'X invece è quotato 3,50. Oggi invece settima tappa tappa del Giro d'Italia con la frazione che da Frosinone porta il gruppo a Foligno, 211 km di sali scendi senza però grosse asperità, e allora per questa tappa sembrano favoriti i velocisti. Dopo il ritiro di Marcel Kittel, il favorito d'obbligo è Nasser Bouhanni, quotato 4,50, Elia Viviani, corridore italiano, è quotato 6, mentre Ben Swift e Giacomo Nizzolo sono quotati 12. Per la vittoria della maglia rosa è interessante vedere come la quota di Cadel Evans sia scesa rispetto all'inizio del giro a 3, adesso la troviamo la quota del corridore australiano, mentre il favorito resta Quintana, quotato 2. Questa era l'ultima quota di oggi, noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. Due ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare. Chiaro che essendo arrivati a giocare la semifinale di ritorno in casa, quindi a 10 giorni dalla finale sempre in casa, il rammarico esiste. Il ragionamento però deve essere un ragionamento fatto a 360, che è qual è stato il percorso della Juventus nelle competizioni europee. Noi abbiamo giocato la Champions League l'anno scorso e siamo usciti ai quarti di finale contro un Bayern Monaco che poi si è rivelato vincitore con una grandissima squadra. Quest'anno il rammarico vero non è essere usciti in semifinale col Benfica, che ci può stare, il Benfica è una squadra di esperienza, ha un percorso europeo importante negli anni recenti. Il vero rimpianto, se guardiamo indietro, è non aver passato il turno di Champions League e essere andati avanti in quella che è la principale manifestazione. Quindi quello è il vero dispiacere. Essere arrivati alle semifinali di Europa League è comunque un percorso di crescita che ci lascia quel pizzico di veleno sul dente che sarà necessario per trovare gli stimoli e ripartire l'anno prossimo. Solo tra le tue braccia il Ma parliamo di errori, ne abbiamo parlato un po', anche se da Fermina è stato un errore. No, come no? Lo mandate via. Pensavamo che avesse tutti i requisiti e non li ha. Per poter essere un buon allenatore. Adesso, alla fine, dopo l'ultima partita di campionato, riuniremo il consiglio e come abbiamo sempre fatto per tutte le decisioni, prenderemo una decisione insieme. E io spero che, come ci è capitato tante volte, si possa prendere la buona decisione. Le dirò che non è neppure escluso che possa continuare Seedorf, sempre se con Seedorf riusciremo a trovare un accordo sul tipo di rapporto tra lui e la società. Mais écoutez, vous dites que c'était une erreur, oui. Oui, enfin une erreur, une erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. Mais le comité exécutif, avec une majorité assez large, a quand même décidé qu'on va jouer au Qatar. Allora, nell'ordine Agnelli che dice vabbè, uscire col Benfica ci può stare, ma dove ci può stare? Ma dove con la finale in casa? Primo, Berlusconi, che abbiamo già sentito prima da Minoli, Seedorf, si riunisce il consiglio d'amministrazione del Milan e decideremo tutti insieme, ma in che film? Blatter che dice vabbè, mondiale in Qatar, ho fatto la cazzata. Ma va? Pardo. Ci sei ecco. Sì, ci sono. Non male, Non male, Vlad. No, male. Sbagliato, errore. Può capitare, sbagliato, paese. Stavo in Norvegia, invece era Qatar. Sì. No, però. Ma l'autocritica è sempre positiva, no? No, non lo è. Ma stai scherzando? Autocritica di che? Devi fare una cosa in 4 anni, la sbagli? A casa, dai, sarebbe anche diciamo che non è che siano successi dei fattori, diciamo, sociopolitici degli ultimi anni che rendono il Qatar un paese poco adatto. Parliamo essenzialmente di grano. Di temperatura. Parliamo essenzialmente di grano, dai. Cioè, i problemi sono legati alla temperatura, all'umidità. Ma sì, ma non esiste adesso mondiali d'inverno. Però, mi sorprende molto, anche a me, ma. Molto. Anche a me sorprende molto, perché Blatter è uno che normalmente quelle cose lì non le fa chiedere scusa a nessuno, anche quando fa il verso a Cristiano Ronaldo, salvo poi tentare patetiche retromarce. Marco, provincia di Pisa, poi salutiamo per Luigi. Buonasera, grazie di essere convocato. A lei. Niente, io sono apertamente in polemica con lei, gente, anche se la seguo, perché so che sì. Non sarà d'accordo con quello che dico. Perché secondo me il codice etico che ha fatto Prandelli era, se vi ricordate, era quella della famosa comitata di De Rossi al mondiale quando nel 2006. No, lui ha detto, Marco, mi perdoni, lui ha detto, Prandelli ha detto che il codice etico l'aveva fatto per quella storia di Balotelli quando giocava nel Manchester City. Aveva così inventato il codice etico, aveva varato meglio il codice etico. Le leggo, vuole che legga la risposta? Se la trovo. Sì, no, ma però scusi, volevo dire che però lui dice che in una manifestazione così corta, così intensa, perdere la testa in una partita pregiudica, può pregiudicare un mondiale, no? Sempre detto questa cosa qui. E ha fatto, al di là di tutto, qui è un cane che si morde la coda, perché anche 100 punti della Juventus sono figli di questo arbitraggio. Che Chiellini, se giocava nel Verona o nella Fiorentina, avrebbe avuto più ammunizioni e più espulsioni durante il campionato. So che lei non è d'accordo, lo so benissimo. No, ma però, io posso essere la storia, ma che cambia? La storia parla chiaramente su falli fatti e ammunizioni. C'è delle statistiche che dimostrano che Chiellini ha un certo beneficio dall'arbitraggio. Non so se è sudditanza, se è perché lui è un campione, non si perché sa come mai. Perché però gioca nella Juventus, no, ma io non è che non sono d'accordo su questo. Io, sì, si conferma quanto ha detto Prandelli, che in Italia il codice etico diventa un motivo per litigare per ragioni di partito, cioè per ragioni di maglietta, per ragioni di club, per ragioni di tifo, per ragioni di appartenenza a questo o a quella squadra, perché dice sempre Prandelli, il codice etico lo feci per la storia di Balotelli, nacque, dice Prandelli, 4 anni fa quando Balotelli, che allora era al Manchester, venne espulso, io decisi di convocarlo senza aspettare il giudice sportivo inglese, perché per me Mario non aveva commesso alcun tipo di violenza. Nessuno disse nulla o creò problemi, forse perché il giudice era inglese. In Italia c'è troppa faziosità, questa è l'Italia e questa è la risposta corretta. Detto questo, il codice etico continua a pensare si potesse fare a meno. Chiellini o Balotelli o Cassano, De Rossi o Destro, credo si dovesse fare a meno. Pier. Sì, no, ma io ti dico che a proposito dell'essere faziosi, il Tele ci divide su tutto, non è che c'è. Non solo su questo. Ci divide addirittura, ovviamente in maniera da parte di alcuni, no? Però anche sulla vicenda drammatica dei fatti di Territorio di Quinto sembra che ci sia gente che invece di aspettare l'andamento delle indagini di per forza deve decidere, cioè, lì bisognerà punire il responsabile, punto, e credo che la fede, il tipo calcistico della persona che è responsabile sia un dettaglio, perché credo che ma certo sarà confermato che era un tifoso della Roma, tutti i tifosi della Roma vorranno vedere in galera una persona che ha sparato, se verrà confermato questo tipo di tutti non lo so. Sì, ma comunque voglio dire, dobbiamo risolvere il problema, quindi la tendenza a dividersi, Roma contro Napoli, contro Torino, contro Lazio, è una tendenza assurda. Qui poi secondo me nel caso del codice etico non c'entra niente, perché ripeto, io non penso che Chiellini sia stato perdonato perché è della Juve. Io penso che Chiellini sia stato perdonato perché serve a Prandelli e serve più di altri. Ma quindi sicuro. Viene perdonato. Ma sicuro. Ed è giusto. Ed è giusto. Con Balotelli, che non è della Juve, sarebbe successo lo stesso con De Rossi, che non è della Juve, magari altri giocatori che sono borderline, che magari Prandelli non avrebbe neanche portato, dovrebbe invece farsi fuori. Sì. Però, ripeto, sì, che poi non è bello neanche questo, perché non deve neanche diventare una giustificazione, certo, per far fuori questo o quell'altro, per fare allora i senatori però, no, famosa, e quegli altri la famosa vicenda Borucci Criscito, che Prandelli ci spiegò sulla base del tipo di perquisizione ricevuta, quindi con degli aspetti burocratici. In realtà sarebbe stato molto più logico, molto più onesto, se ci avesse detto siamo in una situazione di questo tipo. Per me uno è un giocatore insostituibile, l'altro no, questa è la verità. Sì, no, ma è verissimo. È vero che poi 2 anni dopo Criscito, che sperava tantissimo, ancora una volta non viene chiamato. Quindi stiamo parlando veramente di, secondo me, del nulla. Però su questa questione qui sicuramente, diciamo, da 5 giorni Prandelli si è un po' incartato. Ha fatto tante cose buone, positive, sociali, interessanti, da davvero uomo di sport. Qui secondo me qui a Toppato, e speriamo che comunque questa storia possa rientrare anche sui miei dubbi. Non stiamo parlando di nulla, secondo me la questione è molto interessante, secondo me, Pierluigi. Sì, ma sì, comunque no, tanto avremo modo, avremo modo di tornarci, e poi sarà curioso di vedere, sarà interessante. Dimmi. Nella intervista di Prandelli sulla Gazzetta di oggi c'è un aspetto che per certi versi si ricollega a questo, quando dice che non ha comunicato l'esclusione ai giocatori che ha scartato. Questo, secondo me, è sintomo anche di una certa debolezza caratteriale di Prandelli, che usa degli alibi, usa l'alibi del codice etico per scartare dei giocatori che magari non gli servono tantissimo, e quando non ha l'alibi del codice etico dice: ragazzi, io comunque non vi avviso perché mi sento in imbarazzo a comunicarvi che non fate parte della squadra. Ma sai, non lo so, anche a me non piace molto questo aspetto, però è stato anche onesto a dirlo. Dire a uno che non viene al mondiale è una cosa non brutta di più. Però se il CT fa parte del suo lavoro. Pierluigi, grazie, ci sentiamo lunedì. Ciao, salutami il Foro Italico. Ovviamente c'è la tensione del giocare una partita importante, una partita che ti può mettere poi nella finale per il titolo. Noi abbiamo avuto come club le ultime due Final Four, non sono state buone. Due anni fa la squadra perse a Istanbul, una finale praticamente già vinta. L'anno scorso abbiamo perso la semifinale giocando una partita molto mediocre. Credo che per noi il primo problema è proprio toglierci dalla spalle questa preoccupazione, questa paura, questa ansietà, e non farci travolgere da nessun tipo di ansia. Se riusciamo a giocare come abbiamo giocato nel top 16 per quasi tutte le partite, io penso che abbiamo una chance di vincere la partita e andare in finale. Se ci facciamo prendere dalle ansie, allora diventa un'altra giornata molto difficile. Allora, questo era Ettore Messina. Questa Milano è la capitale europea della pallacanestro. Da stasera iniziano le Final Four di Eurolega. Il mio convocato per un giorno ha un cognome emblematico: Marzorati. Sei parente per Luigi? No? No, purtroppo no. Tra l'altro la mia carriera di tifoso cestistico è stata complicata con questo cognome, perché io sono tifoso dell'Olimpia e quando mi sono tesserato per i Red Shoes Supporters mi hanno chiesto il cognome e mi hanno guardato storto. I capi curva in transenna hanno detto: tu sei Marzorati. Vediamo se tesserati o no. Vediamo. Sì. Jerry De Rosi invece tesseratissimo racconterà questa Eurolega per Fox Sport, e soprattutto è mio amico, mio grande amico, che sento sempre con piacere. Ciao Jerry. Ciao Carlo. Sei pronto? Mio. Ciao a tutti. Sì, prontissimo, schierato già al Forum, che è diventata un po' colonia catalana in questi giorni. C'è anche l'Eurolega ha sede a Barcellona, quindi si parla un po' più catalano che italiano. Sì. In questa fase di preparazione. Ascolta, non ho avuto modo di fare un giro a Milano in questi giorni, ma mi hanno detto che sono davvero bravi quelli dell'Eurolega a far vedere che Milano è la capitale europea dei canestri. Un sacco di eventi in giro, di manifestazioni, insomma, Milano vestita a festa per la pallacanestro, questo è bellissimo. Sì, Piazza del Duomo ha un'altra faccia con i canestri, è sempre stata bellissima, adesso per chi ama il basket lo è un attimo di più, perché è piena di canestri, piena di campioni, di iniziative, mega schermi, si fanno così le cose, si vuole diffondere uno sport che non è il calcio e provare a renderlo più popolare possibile. Sì, poi anche per dimenticare le manette e altre cose, certe presidenze, per fortuna in pectore di Lega, vabbè, lasciamo stare ste robe. È doveroso parlare. In questo momento lasciamo stare, passiamo alle dichiarazioni di intenti. Anzi, la dichiarazione di tifo, che di intenti, di tifo. È ovvio che se per in Coppa dei Campioni, in Champions League, tifo per Carlo Ancelotti, qui non ho dubbi. Tifo per il Cesca di Ettore Messina. Ah, non c'è dubbio, ultimo rappresentante del nostro basket, ormai da tanti anni fuori dall'Italia, anche questo è un dato emblematico, perché lo stesso Messina è il primo a dire che in Italia si fa fatica a lavorare, lui l'ha detto 8 o 9 anni fa e nessuno l'ha ascoltato, ha fatto finta di sentirlo, però se uno come lui se ne deve andare vuol dire che il nostro sistema non va bene, è uno dei tanti campanelli d'allarme che il nostro basket ha tralasciato di sentire, però l'ho sentito anche l'intervista, l'anno scorso ha detto che ha perso in semifinali, io aggiungo che l'unica volta nella sua carriera che ha perso in semifinale, cioè lui al Final Four ci arriva e normalmente almeno la semifinale la vince, poi spesso anche la finale. Sì, stasera col Maccabi la prima è anche la più insomma facile da pronosticare, che Zesca è il grande favorito. Dicevi, Cristiano? No, sentivo parlare del Maccabi e mi sono ricordato le 3 partite che abbiamo regalato nel turno precedente. Vuoi se no potevamo l'unica. Esserci noi. Sì, infatti secondo me questo è il peccato capitale della stagione milanese, perché se per la Juventus è giusto dire che la stagione europea è stato un fallimento, per Milano non è stato un fallimento, però in questa Final Four, considerata la crescita della squadra, è un peccato non esserci, Jerry. Sì, aggiungo solo una cosa, che se si guarda come ha giocato Milano tutta la stagione, come ha giocato il Maccabi, secondo me fra le due squadre non c'è paragone, è più forte Milano, però quando si dice in Europa bisogna crescere, bisogna fare qualche passo in più, vuol dire anche saper giocare al tuo meglio nelle partite che conta. Certo. E Milano questo passo al primo anno, diciamo, da protagonista in Eurolega non l'ha fatto, la speranza è che questa sconfitta serva per l'anno prossimo per far stare pronti per giocare come sai nel momento che conta di più, e io mi riferisco più che altro alle partite a Tel Aviv, perché poi la sconfitta di gara 1 è anche incommentabile, insomma sì. Sono quelle cose che succedono una volta ogni 10 anni, purtroppo a Milano è successo in una occasione importante. Volta ogni 10 anni, ma è successo lì in quel momento e in una partita così, in una serie così, ed è stata la gara che ha indirizzato la serie. Sì, però il peccato vero e proprio è stato a Tel Aviv, dove proprio Milano non ha giocato neanche lontanamente vicino a come ha fatto da gennaio in poi. Mi ricordavo un'altra cosa riguardo alla partita contro la prima partita gara 1 contro il Maccabi. È successo qualcosa del genere a Milano anche nella prima partita di Coppa Italia contro Sassari, che era in stravantaggio a pochi minuti dalla fine, e anche quella poi è uscita. Era una partita decisiva, una partita secca o di qua o di là, e siamo andati a casa. Anzi, siamo rimasti a casa, visto che eravamo qua. No, ma infatti sono due indizi, ma è quanto dice Jerry, cioè devi imparare nel percorso di crescita a gestire certi momenti. Adesso ci sono i playoff su serie lunghe, non ho grandi dubbi su chi vincerà lo scudetto, riporterà lo scudetto a Milano. Senti, un'ultima cosa, Jerry, il classico Barcellona-Real Madrid semifinale di Eurolega, bellissimo. Strepitoso, bellissimo, io credo che fra l'altro avremo anche la possibilità di capire quanto i tifosi, soprattutto del Barcellona, siano appassionati anche di pallacanestro, perché arriva, diciamo, in un weekend un po' particolare per il mondo del Barcellona calcistico. Voglio vedere quanta gente c'è di Barcellona stasera, sono proprio curioso, e di quanto invece magari ha rinunciato a venire proprio per cosa succede domani nel calcio. Ma detto questo, è una partita insomma fantastica, in qualsiasi sport si giochi, anche se fosse un amichevole sarebbe una partita super, e ovviamente secondo me, ma secondo tutti, chi vincerà il classico vincerà anche l'Eurolega. E io aggiungo solo una cosa, ne parlerò poi magari anche stasera in telecronaca, che nella storia dei Final Four questo è il 12° derby fra due squadre della stessa nazione, e solo una volta di questi 11 chi ha vinto il derby poi ha vinto anche la finale. Perché per vincere un derby, soprattutto il classico, spendi talmente tanto che poi in meno di 2 giorni dura recuperare, però insomma Barcellona e Real sono più forti di CSK, favorita CSK Maccabi. Leggermente il Real, anche se 8 giorni fa ha perso contro il Barcellona la prima partita dell'anno in campionato, contava relativamente, ma lo sai, Barcellona Real conta sempre molto, e Barcellona sta giocando leggermente meglio del Real in questo periodo, ma siccome il Real è più forte. Grazie Jerry, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Ciao Jerry De Rosa, un abbraccio. Io ho, tra l'altro, caro Cristiano Mazzolato, un sacco di messaggi sulla storia delle magliette, quella prima ti ho fatto vedere. Maglietta, quella dell'Inter? Quella dell'Inter, ma poi c'è anche chi scrive: dopo una maglietta mimetica del Napoli con quella dell'Inter siamo al trionfo di Al Cafone, Milan, vero pietoso del mondo. Ma no, io, a me. No, ma quella, della terza quella, maglia puoi farne quello che vuoi. Quella mimetica del Napoli a me piace, l'ho sempre detto. Ma è la terza? Sì, o la seconda, che dir si voglia, va bene, ma insomma, così esteticamente a me piace, sto parlando soltanto di estetica. Ah, esteticamente la prima maglia del Milan dell'anno prossimo secondo me è orrenda, e questa dell'Inter è molto bella, ripeto, nera gessata di azzurro, di blu. C'è anche chi scrive: non tifo più per l'Inter perché sono stufo di vedere giocare l'Inter con i colori scuri, ma sappiamo che è una maglia molto importante. Tutte gocce che fanno traboccare il vaso, La terza del Milan è molto bella, mi dice Roberto Scaltritti. Che colore è? Non me la ricordo. Ah, quella giallo Brasile, sì, ma anche sì. Quella del Milan di quest'anno nera, a me piaceva. Vabbè, ma non, è abbastanza non è classica la maglia. No, ma il discorso Milan. Vero sulla maglia dell'Inter è: se mi dicono che quella che hanno presentato, e te l'ho fatta vedere prima, sì. Non so come io descrivere, un gessato nero, gessata blu. Se mi dicono questa è la maglietta ufficiale della prima maglia dell'Inter, o io fossi un tifoso dell'Inter, non lo sono, tu sì, direi, ma non lo so. È difficile considerare la maglia dell'Inter quella lì. Io la vedrei benissimo con una maglia d'allenamento. Vabbè, ho capito l'allenamento, ma se ti dicono la maglia dell'Inter è quella, questa, non è quella. Non è questa. Io poi scherzavo con l'ascoltatore di prima, con Pierluigi, dicendo sì. la divisa di rappresentanza. Non è una divisa di rappresentanza perché è una t-shirt sportiva. Sì. Però i colori non sono quelli. Sì. Cioè, non è la maglietta dell'Inter. E se dici, cioè, nuovo presidente indonesiano, ringrazia Allah per essere arrivato in Coppa, dici da tutto, perfetto. E la maglia. Fino a un certo punto. Ma come no? In una globalizzazione del mondo, cioè, voglio dire. Ci sta altro che, però, se mi dicono questa è la maglietta dell'Inter, forse sono troppi cambiamenti in una volta sola. Chissà che non cambia anche l'allenatore. Vabbè, senti, parliamone dopo. Adesso abbiamo la borsa, poi abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. 800 24 00 24, un numero verde. Tutti convocati. Ci siamo ragazzi. Allora, rieccoci con Cristiano Marzorati, nostro convocato per un giorno, poi ti dà la maglietta, arriva. C'è davvero? Eccetera, sì, è più bella di quella dell'Inter. Vabbè, non è difficile. C'è davvero, bellissima, è grigio con la scritta verde, tutti convocati, il simbolo del programma, la Radio Madonna. 24 di sì, tanta roba. Per molti, cioè, ma non per tutti. Per molti, ma non per tutti. Per me, per esempio, no. Non so perché. Sara Errani, grande partita contro la cinese Nali, numero 2 del ranking mondiale a Roma. Grande spettacolo per Errani. 6-3, 4-6, 6-2 per Sara, che adesso giocherà contro la vincente tra Radvanska e Jankovic. Dunque, grandissima Saretta. Gabriele da Grosseto, buongiorno. Buon pomeriggio, Gabriele da Roma, non da Grosseto. Ma ha scritto Grosseto, Gabriele, abbia pazienza. Abbia pazienza, dica. No, innanzitutto grazie per la convocazione. No, volevo dire due cose abbastanza velocemente. La prima è che io, rivedendo alcune foto video d'epoca, per quanto riguarda, io sono interista, ma mi sono visto ieri la finale di Coppa delle Coppe, sì, della Lazio, che fu l'ultima, e sì, mi sono chiesto poi, diciamo, anche vedendo un po' com'era questa Coppa, se la situazione delle coppe europee non era meglio prima, cioè con Coppa UEFA, Champions e Coppa delle Coppe, ne avevi tre più varianti, e comunque io, da quello che ho potuto vedere, erano tutte e tre molto prestigiose, non ce n'era nessuna snobbata. Poi io non capisco perché si snobbi l'Europa League al giorno d'oggi. E poi un'altra cosa, volevo chiedervi se secondo voi, perché c'è questa tendenza di, no, per fortuna non tanti, a dire no, Non mi piace il CT, non tipo la nazionale, perché per questo e per quest'altro motivo. Ma no, io questa tendenza non la percepisco, a dire la verità, Gabriele. Io, diciamo, vivendo a Roma un pochino la percepisco, però ecco, per fortuna non la vedo molto, molto larga, perché però no, è anche vero che cioè, purtroppo c'è chi dice non mi piace il codice etico, oppure non ha convocato questo, non ha convocato quest'altro. No, ma sono sciocchezze. Sì, no, ma sono secondo me sono casi veramente borderline. Certo. Poi mi sembra anche che Prandelli, al di là di tutto, codice etico, tutto quanto, mettiamoci i convocati che possono piacere o meno, però mi sembra che sia uno dei CT più amati trasversalmente, no? Cioè uno di quelli che è capace di mettere un po' tutti d'accordo. Poi il secondo posto agli europei è tutt'altro che una brutta cosa, e ha fatto un grandissimo risultato. Questa nazionale è accompagnata come spesso accade, con molto scetticismo, con molte perplessità verso i mondiali. Io non sarei così pessimista, né così sull'amore degli italiani per questa squadra, né su Prandelli, o no? Ma allora, io sono molto d'accordo sul primo discorso sulle coppe europee che faceva questo ascoltatore, sì, nonché interista, quindi anche a Roma, sì, anche fuori sede, anche in perenne trasferta, noi interisti siamo dappertutto. Sì. Per quanto riguarda Prandelli, invece, c'è da parte mia, non una avversione nei confronti della nazionale, perché la nazionale italiana è la nazionale italiana, sì. Un disinteresse però, perché è una nazionale poco italiana per conto mio. Perché poco italiana? Perché adesso vedremo i convocati definitivi, però ci sono Thiago Motta, ci sono Romulo, c'è Paletta, c'è Balotelli, Balotelli è italiano, che sta di? Balotelli è italiano. Balotelli è italiano di passaporto. No, italiano, è nato a Palermo, italiano, cresciuto in Italia. Ma se nasceva in Cina non era cinese? Ma guarda, io sono da e poi ce n'è anche un altro che adesso mi sfugge, un altro oriundo. Romulo Paletta, Thiago Motta. Vabbè, no, mi sfugge. Comunque avevo fatto il calcolo, sì, che erano 5, sì. E non rappresentano in pieno l'Italia, su questo non sono assolutamente d'accordo, anzi è un pensiero opposto. Cioè, secondo me è giusto convocare e chiamare tutti quelli eleggibili, perché i documenti sono regolari, non li hanno rubati, è un mondo diverso. Io credo che questi abbiano, cioè, vadano ai mondiali per giocarli per la nazionale, perché ci credono, perché è una grande cosa. Non sono d'accordo su distinzioni di questo tipo al mondo di oggi. Poi so che abbiamo una questione aperta sul fatto a te piaceva di più il calcio prima con due stranieri, eccetera eccetera. Per la nazionale era un bene quando c'erano pochi stranieri. Abbiamo visto cosa è successo nel 66, quando poi si sono chiuse le frontiere, siamo arrivati in finale nel 70. Sì, però secondo me questo è un discorso generale che vale per tutto il mondo. Ormai non ci sono più frontiere, i giocatori sono professionisti, e a me sinceramente importa davvero poco il colore dei timbri sul passaporto di quelli che giocano. Io la distinzione la faccio tra stranieri o italiani, ma tra quelli bravi e quelli scarsi. Ma guarda, nello sport al massimo livello, io si parlava prima di calcio spagnolo, perché sta per finire la Liga. Io sono un grande ammiratore dell'Atletico Bilbao in Spagna, perché non solo non ingaggiano stranieri, non ingaggiano neanche gli spagnoli. Mm-hmm. Loro sono baschi. Infatti c'è una forte identificazione tra la squadra e il pubblico nel loro caso. Sì, ripeto, ognuno si tiene il suo pensiero, la sua idea. Io sono l'Inter, la squadra più internazionale che c'è. Da questo punto di vista, visto che gli interisti si vantano della loro natura internazionale, ora è giusto che si tengano una maglia da baseball nera. Scrive un ascoltatore. C'ha ragione, purtroppo. Senti, la prossima convocata per un giorno. Conte sì o Conte no? Secondo me Conte sì, nel senso che alla fine rimarrà. Sia Conte che la Juve mi sembrano un po' quegli uomini che si vantano di volere e di ottenere nuove avventure amorose diverse ogni settimana e che poi invece restano inesorabilmente attaccati alla gonnella della propria moglie, perennemente in pantofole e non depilata. Conte cerca di far capire di avere offerte dall'estero, ma chi si prenderebbe un allenatore che, seppur stra vincente in Italia, fuori dai confini nazionali finora ha fatto poco o nulla? E da parte sua, la società davvero può pensare di trovare di meglio, tenendo conto delle limitate risorse finanziarie del nostro campionato? Dopotutto, chi si accontenta gode, così così diceva in Liga. E chi si accontenta gode, così così. Caro Cristian, passerai testimone a Paola Giacomini. Ciao Paola. Buongiorno a tutti. Bravissima. Senti, ma vieni qui, no? A prendere la maglietta, giusto? Sì, certo che vengo. Ti aspetto. Sei juventina, momento. Naturalmente, vero? Sei juventina? No, non sono juventina. Cosa sei? Ti fa la Sampdoria. Grande, le doriane non si battono. Sampdoriana. Sì, sampdoriana, grandissima Paola. Mi ha fatto un discorso della Madonna su Conte. Vabbè, perché fa giornalista, cioè ha fatto un discorso giornalistico su Conte. Ho un futuro. Hai un futuro. In curva Scirea. No, vabbè, è cattivo Cristian, cioè, è integralista in una maniera terrificante. Ma tu come la vedi sul tuo discorso che facevamo prima? A te è una nazionale con gli oriundi, una nazionale aperta, un campionato che sia comunque normale, credo, nel 2014. Io sono una grandissima tifosa della nazionale italiana, cioè sì, un po' per me sono la Sampdoria e la nazionale sono come il papà e la mamma, cioè non si può scegliere, per me hanno lo stesso amore, insomma. Sì. E per quanto riguarda il concetto degli oriundi, io ho un po' una via di mezzo, cioè secondo me Balotelli è italianissimo. Ma guarda, su questo, Paola, allora vorrei sgombrare il campo un attimo. Balotelli è italiano, cioè non è che forse, ma chissà, vediamo. No, Balotelli è italiano, discutiamo di Paletta se volete, di Romulo se volete, ma ragazzi, Balotelli è italiano, cioè non ci sono discussioni su questo punto. Dimmi, no, Paola. Certo, infatti, cioè, secondo me, però visto che era stata nominata. Sì, sì, no. Sui vari Paletta e Romoli, io non guardo molto, diciamo, il famoso ius sanguinis. Cioè, secondo me uno si deve sentire italiano e essere, cioè sentirsi lui. Una persona che ha solo i documenti, però magari gioca con noi perché è stato rifiutato da un'altra nazionale, lo vedo un po' così. Ecco. Infatti che devi fare una scelta, sai. Per esempio, Icardi ha scelto la nazionale argentina, e scelta legittima. Quello che io non condivido è quando uno indossa in vita sua più di due magliette di una nazionale, cioè uno deve fare una scelta, che poi scelga di stare da una parte o dall'altra, questi sono problemi suoi, è compito di un selezionatore, secondo me anche questo va detto, è compito di un selezionatore chiamare tutti quelli eleggibili che siano funzionali ad un progetto, almeno questa è la mia idea. Paola, ma Mihajlović resta o no? Perché tu hai parlato di Conte, ma Mihajlović che fa? Guarda, perché se sono io ore che... tanto che resti, però sono un po' pessimista, dico la verità. Ho sentito dei nomi assurdi, anche Allegri, ma per carità... No, vabbè, Allegri no, però... non lo vorresti? No, io non lo vorrei personalmente. E se va via Sinisa chi? Se va via Sinisa io prenderei comunque una persona abbastanza sanguigna, cioè per esempio tra tutti i 100 nomi che ho sentito che comunque vanno molto verificati, un Colantuono non mi spiacerebbe. Colantuono però, certo. Mia cara, sta a Bergamo. Brava, sai cosa, anche Allegri per ora sta non so dove. Si fanno tutti i nomi, però io comunque ovviamente mi terrei Sinisa. Va bene, allora facciamo così, ti aspetto venerdì e vediamo di rintracciare Mihajlović, così provi a convincerlo, sempre che venerdì non abbia già preso un'altra strada. Grazie Paola, ci vediamo qui. Grazie. Ciao, vediamo, Paola. Grazie, ciao. 800240024, abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme, parlando anche di Giro d'Italia, tra l'altro, pericolosissimo ieri, dopo il traffico. Tutti convocati. Attenzione, una scivolata! Bruttissima caduta! Un punto terribile questa. Attenzione, caduta, e anche caduta. Più avanti, affrontando questa rotonda, la velocità era molto molto sostenuta. Giampaolo Caruso, dice la grafica, dovrebbe essere, sì, è proprio Giampaolo Caruso. È proprio Giampaolo Caruso, l'uomo mentre si è spezzato, Cartuscia. Si è fratturato il gruppo. Parte adesso invece Michael Matthews, poi viene il secondo Evans ed è Matthews, la maglia rosa che va a vincere la sesta tappa. Era sempre rimasto a ruota di Cadel Evans, dando la sensazione di poter gestire e controllare la situazione. Michael Matthews. Sì, Michael Matthews vince, ma tanti devono andare a casa, compreso Rodriguez che era uno dei favoriti, e quella rotonda è davvero un incubo. Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo. Ciao. Buon pomeriggio. Senti, non mi è sembrato impeccabile quel punto del tracciato ieri, in cui c'è stata quella caduta pazzesca. È chiaro, c'è la sfiga del tempo che non dà un secondo di tregua, no? Sappiamo che qualche volta è così per il Giro d'Italia, però non mi è sembrata organizzata nelle migliori condizioni quella parte del tracciato. Ma guarda, ci sono una serie di concause. Intanto, come hai detto tu, la pioggia ci ha messo non una mano, ma molto di più. E rimanere in piedi a 70 all'ora su una strada resa viscida dalla pioggia non è cosa facile. Ieri sera ero nell'albergo di Ivan Bassa, della Cannondale, mi ha detto che prima di di cadere, ha dato un'occhiata al contachilometri, stavano procedendo in questo drittone, questa strada drittissima, leggermente in discesa, 68 km/h. Dopo non ho visto più niente, mi sono trovato per terra. Lì però sono d'accordo con te, la rotonda c'è, però c'è anche un sistema per segnalarle, e sono quelle delle bandiere. E tra l'altro da quest'anno vengono utilizzate delle bandiere che sono diverse da quelle che vengono utilizzate in Europa, e sono triangolari, e la punta segna la direzione, cioè con un colpo d'occhio il corridore capisce se deve passare a destra o a sinistra. Sì. Invece ieri la bandiera era rettangolare, una bandiera, e quindi arrivano a tutta velocità in questo drittone, si trovano la rotonda davanti e non sanno se la via di fuga è a destra o a sinistra, e lì viene a quella velocità. Quindi un errore c'è stato? Secondo me sì, poi probabilmente poi possiamo metterci dentro tutto, le ruote in carbonio che frenano molto di meno, perché comunque una ruota in alluminio in condizioni di pioggia è sicuramente meglio, le gomme troppo gonfiate, perché hanno notizia di metterla a 9 atmosfere, e quando piove bisogna invece avere un po'. Allora, diciamo che è stata una serie di concause. Ognuno ci ha messo di suo, soprattutto i corridori insistono, perché anche stamattina te lo dico, qui minaccia pioggia anche oggi. Stamattina ho fatto il giro di tutte le squadre, tutte ancora hanno montato ruote a profilo alto in carbonio, quindi è come se nulla fosse. E la cosa bella è che i meccanici delle squadre invitano i corridori a usare ruote in alluminio, però i corridori si sentono quasi declassati. Ah no, ma non sono belle. Ma allora, sai, però Pierluigi, io dico, cioè, non puoi dire a un corridore di andare piano, così come non puoi dire ad un pilota di Formula 1 che ti dà una macchina da 350, da 1000 cavalli, però non usarli tutti. Cioè, questa gente è gente che quando va lì, quando sale su una macchina, su una moto, su una bicicletta, allora vanno a canna, giù il piede, fuori tutto il gas, insomma non puoi dire a questi di andare piano, di stare attenti, perché lo fanno per mestiere, perché ce l'hanno nel sangue, e in fondo forse perché è anche giusto così. Grazie Pierluigi, alla prossima. Cristiano Marzorati, ti saluto, ti ringrazio. Grazie a te che mi hai offerto questa esperienza. Il migliore in campo di oggi, Pierluigi? Sì, ne parliamo da 5 giorni. No, non te, Pierluigi da Parma. Pierluigi da Parma. Ciao Pierluigi, come stai? Dove sei? Ciao, Nandivano. Dove sei? Di Nandivano? No, sono proprio di Parma. Proprio di Parma. Ma di Noceto, di Busseto, dove sei? No, Parma Aceto. Ma dove? Senti. Vicino al Battistero, di fronte al Ducato? No. Periferia. Senti, io sono interista e quindi saluto il compagno del tipo Cristiano. Il collega. Vai, Luigi, tieni alta la bandiera. Sempre. Senti Cristiano, volevo chiedere a te, hai visto le anticipazioni della nostra nuova maglia di quel prossimo anno? No, devo avere paura? È tipo quella del Milan? Ma non l'hai vista? No. Ma che interista sei? Quando l'hanno presentata? Adesso te la faccio vedere. L'ho visto su Instagram. Sembra un completo gessato alla cerimonia. Bene, chiudiamo qui, ringrazio Cristiano Mazzolati, convocato di oggi, Franco Piantelli, autore di questo programma, Claudio Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia, domenica c'è Giovanni Capuano, adesso c'è il recap del meglio della settimana curato da Roberto Scaltritti, noi ci sentiamo lunedì alle 2, ciao. A me Eugenio Corini viene da chiamarlo ancora capitano, non mister, non mi sono ancora abituato, pensa un po'. Ciao Eugenio. Buongiorno a voi. Penso che oggettivamente quando siamo arrivati io e il mio gruppo di lavoro a metà novembre, la situazione era molto delicata, difficile, però l'inizio importante ha dato sicuramente fiducia morale. Facciamo una convocazione a tiki-taka in diretta per il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli. Il signor Francesco, eccolo qua. Il signor Francesco, complimenti. Ciao a tutti. È stata una un'annata difficile, con tante vicissitudini, con tanti cambiamenti, tanta inesperienza soprattutto da parte di chi la categoria non l'aveva mai fatta, e sono stati commessi degli errori come spesso succede, però sono stati rimediati alla grande, come qua Sassuolo si fa da tanto, nel senso con programmazione, con lavoro, con attenzione, e credo che possa essere una grande base per il futuro. Compriamo il Bari, è ufficiale. Sì. Intanto il capitano ce l'abbiamo già al telefono, Marino Defendi. Ciao Marino. Ciao, buongiorno a tutti. Il fatto del fallimento ci ha dato una marcia in più, e uno stimolo in più per cercare di far bene. Dopo, io praticamente dall'inizio dell'anno che comunque ho sempre dichiarato che questa squadra, i risultati che otteneva non erano suoi, perché io ho sempre avuto fiducia comunque di tutti i passi, dei mister, di tutti. E adesso comunque i risultati si vedono. Giovanni Rodetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi avevano fatto questa proposta di andare ad Acapulco. Sì. Mi avevano anche promesso gli stessi soldi che non mi hanno dato. E tu hai risposto? E io ho risposto di andare a fare il culo con te. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, allo stesso giorno, alla stessa ora, alla stessa rete. Bello, eh?